Sono stato trovato col naso provato, perché tu mi servi, mi sento agitato. Ti vedo, ti prendo, se abuso svengo, ma anche se mi impegno, mi servi o mi spengo. Sei una droga allucinante, brucia ad ogni istante, seduci con incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Sei una droga allucinante, brucia ad ogni istante, seduci con incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Sono fatto, sono andato, non basta un po' che poco. Sono loco, non gioco, sono preso nel cuoco. È troppo tardi per scappare, per uscire sano. Ho la mano nel guano, non andrò tanto lontano. Se rimango a secco esplodo, divento stecco e non mi muovo. La voce va giù di tono, la luce va a prendere il volo. Prego che ci sia un perdono, che ci sia di nuovo il dono. Perché da quando ti ho trovato sono preso e mi hai drogato. E senza te, non vivo niente, niente. Vedo gente, gente, ma dietro porte, porte. Una dose di te è troppo forte, forte. Per uscirne, indenne allora, d'ora, vedo l'ora, d'ora, di riaverti, verti, di poterti, poterti avere ancora. Ora, io con te, te non ho paura, paura. Non esiste alcuna cura, cura. Dolce, dolce più del miele, dolce culla più del mare. Un po' di te come volare, un po' di te più nessun male. Allora vieni ancora qui vicino, è l'ora di un bacino piccolino. Sei il motivo che mi fa campare. Sei una droga allucinante, brucia ad ogni istante. Se bruci con incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Sei una droga allucinante, brucia ad ogni istante. Se bruci con incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Dipendente, sei un fattore dominante. Sono dati allucinanti, passo il tempo a pensarti. Penso a tutto il tempo che ho sprecato. Peccato, prima di averti trovato ero malato, gli amici avevo, sono sincero. Bella cosa, sì davvero, la rivedo, sì un po' meno. Perché tu mi prendi in pieno, capiranno almeno. Credo che sei tutto un gioco e spero, e spero che sia vero, che capiscano che tremo. Se salto il turno sono come sotto un treno. Preferisco averti ancora e prendere il treno da loro. Se no finisco il volo con il culo dentro un foro. E così mi cade il coro e finisce il giusto suono. Sento un tuono dentro l'uomo che sono. Ma con te sono un re buono che dono. Sei la chioccia, io l'uovo che tono. Tu forse senza me vivi, io no. Sei una droga allucinante, brucio ad ogni istante. Se luci col tuo incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Sei una droga allucinante, brucio ad ogni istante. Se luci col tuo incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Se mi sbaglio voglio un foglio dove tutti quanti scrivono, dicono e sbagliano che sono un tale dop. Tremo come una foglia giunta sulla soglia, sulla spiaggia deserta, sono in allerta. È difficile riuscire a uscire ancora tutto a posto. Qualcosa c'è di rotto, dipendente sotto sotto. Sono abituato ad averti addosso e non posso non averti in possesso adesso. È passare un dosso e finire nel fosso. È mostrare il cane all'osso e nascondere il gesto. Depresso, ti senti fesso, sentiti cesso. Spesso ti manca, non è spassoso. Ti auguri che lei per te non sia mai finita. Ritoccarla sempre solamente con le tue dita. Tu hai nelle vene spinte in quantità maggiore. Hai l'onere di pensare se per te è infinita. Ci sei dentro ed è duro questo tunnel in salita. Come andare con la slitta in scivolia. In risalita un saliscendi dove pendi per riscendi. E scegli scivolando lei perché è per te la via più scarita. Oppresso un grosso masso e sei contento, è la tua vita. Un'overdose di piacere, mista gioia e amore insieme. Non è il tempo delle pere, ma di cosa più gradita. Parlare del mio amore e scrivere con la matita. Non è quello che tu pensare. No, non è quello che tu pensare. Oh porco, sono finito nel giro della mafia russa. Oh porco, qua finisce che mi ritrovo in una busta. Meglio che me lo da gambe prima che mi stordiscano con una frusta. Sei una droga allucinante, brucio ad ogni istante. Se luci col tuo incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Sei una droga allucinante, brucio ad ogni istante. Se luci col tuo incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Sei una droga allucinante, brucia ad ogni istante. Se luci con incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Sei una droga allucinante, brucia ad ogni istante. Se luci con incanto, sei il più grande sballo, il più grande sballo. Ogni volta che qualcuno mi guarda mi fa sentire come un maniaco malato. Uno di quelli che hanno bisogno della dose giornaliera per poter andare avanti nella vita. Ed è così, è proprio vero e sono fiero che tutt'oggi dico e specifico che senza te non sarei niente. Che senza te probabilmente ora sarei un malato di mente.